Dovrebbero mancare pochi secondi e provo solo un grande desiderio di niente. Maledico gli alberi incurvati dai frutti, innocente di un assassino distratto. Potrebbero mancare forse anche millenni per chi mendica su croci improvvisate. Giunge su una scia di polvere.